24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'Eurogruppo, che ha dato l'ok al piano di aiuti per il Portogallo ed è chiamato a decidere sul delicato caso greco, insieme allo scandalo sessuale che ha coinvolto il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Dominik Strauss-Kahn. Uno scandalo che ha avuto effetti anche sulle borse. Oggi vi portiamo pure a Cannes per il Festival del Cinema e vi racconteremo le ultime dal Giro d'Italia. Come dicevamo, l'Eurogruppo ha dato il via libera al piano di aiuti da 78 miliardi di euro per il Portogallo. Avanza intanto l'ipotesi di una riprogrammazione del debito greco, anche facendo slittare le scadenze sul fronte dei titoli pubblici. L'argomento è da ieri sul tavolo dell'Eurogruppo. Poco prima dell'inizio della riunione, il portavoce del commissario europeo agli affari economico-monetari, Olli Rehn, ha ribadito come la ristrutturazione del debito non sia assolutamente una delle opzioni, lasciando però aperta la porta a quello che ha definito un riprofiling. Nei giorni scorsi era stato il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble a ventilare l'ipotesi di un'estensione della scadenza dei titoli di Stato greci, ma solo a condizione di un coinvolgimento degli investitori privati. E veniamo ora all'altra notizia in primo piano. Oggi respinta la richiesta di liberazione sotto cauzione per Dominik Strauss-Kahn, lo ha deciso la giudice Melissa Jackson a New York al termine dell'udienza in cui il direttore del Fondo Monetario Internazionale è stato accusato di aver violentato una cameriera in un hotel. Il giudice ha fissato la prossima udienza per il 20 maggio. La Francia è sotto shock, sentiamo. In Francia si aspettava solo l'annuncio ufficiale, previsto per fine giugno. Nessuno ormai dubitava che DSK, come viene abitualmente chiamato Dominik Strauss-Kahn in questo paese che adora le sigle, avrebbe presentato la propria candidatura alle primarie socialiste e una volta superato questo ostacolo sarebbe stato lo sfidante della sinistra alle presidenziali dell'anno prossimo. I sondaggi lo vedevano stabilmente in testa e neppure le recenti polemiche sul suo ricchissimo stile di vita sembravano averne intaccato la popolarità. Incredibilmente ci ha pensato da solo a distruggere la propria carriera politica, perdendo per l'ennesima volta il controllo di fronte a una donna, come già era accaduto nel 2002 e nel 2008. DSK nega e la terza moglie, l'ex star del giornalismo televisivo Anne Sinclair, lo difende, ma nella Parigi che conta tutti conoscono questa sua debolezza, che lo ha fatto uscire dalla corsa verso l'Eliseo ancora prima dell'inizio. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ci sono buone ragioni perché la direzione generale del Fondo Monetario Internazionale rimanga un candidato dell'Unione Europea. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, invitando l'opinione pubblica a rispettare la presunzione d'innocenza del direttore generale Strauss-Kahn. I fatti che hanno coinvolto il direttore dell'FMI, Dominik Strauss-Kahn, non avranno alcun impatto sui piani messi a punto per la Grecia e l'Irlanda e sulle altre decisioni che ci si accinge a prendere, lo ha affermato il portavoce del commissario europeo agli affari economico-monetari, Olli Rehn. E il caso Strauss-Kahn ha avuto pesanti riflessi anche in borsa. Sentiamo. Panche pesanti in Piazza Affari sulle preoccupazioni per la situazione greca e per i timori per l'impatto che lo scandalo Strauss-Kahn potrà avere sul nuovo corso del Fondo Monetario Internazionale. Se il settore bancario è stato penalizzato in tutta Europa, a Milano sono stati venduti i titoli degli istituti di credito che hanno in corso importanti ricapitalizzazioni. Monte dei Paschi di Siena ha ceduto il 2,3%, risultando la peggiore del FTSE MIB. Banca Popolare di Milano ha perso l'1,9% dopo la trimestrale e il piano annunciati venerdì, mentre UbiBanca, che ha presentato questa mattina il nuovo business plan, è arretrata dell'1,8%. La migliore del FTSE MIB è stata ST Microelectronics. Il gruppo italo-francese dei semiconduttori ha guadagnato quasi il 3% sulle indiscrezioni smentite di una prossima vendita del comparto della telefonia mobile di Nokia a Microsoft. Da Radio Core, Andrea Fontana per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Standard & Poor's si dichiara pronta a cambiare le proprie politiche tariffarie in Europa per superare i problemi sollevati dall'antitrust sulle commissioni di licenza relative ai numeri di identificazione dei titoli. In particolare S&P ha proposto di modificare la politica tariffaria applicata in Europa per la diffusione dei numeri ISIN, codici di identificazione dei valori mobiliari, indispensabili per le comunicazioni interbancarie. 20 anni di media e il programma europeo per il cinema si sono celebrati ieri al Festival di Cannes, dove sono ben 8 le pellicole in gara realizzate grazie a fondi comunitari. Il Santo Padre in questi giorni si sente vulnerabile, ma allo stesso tempo narcisisticamente eccezionale. Senza di lui, Habemus Papam di Moretti, che tanto successo ha riscosso a Cannes, forse non ci sarebbe stato. E nemmeno altre 7 opere in corsa quest'anno per la Palma d'Oro. Stiamo parlando di Media, il programma della Commissione Europea a sostegno dell'industria cinematografica che festeggia i suoi primi 20 anni. Finanziato dai contributi di tutti gli Stati membri, Media ha investito 1,5 miliardi di euro per migliorare la distribuzione e la produzione dei film europei e rafforzare la competitività dell'intero settore. Per questo il 20% del suo budget è destinato alla realizzazione di pellicole come appunto Habemus Papam, ma anche in passato di altre grandi opere come Tutto su mia madre di Almodovar, Il pianista di Polanski e La vita è bella di Benigni. Il programma, a causa della crisi, era sembrato a rischio, ma ora le possibilità che a settembre venga rifinanziato sono buone. A confermarlo anche la commissaria per l'educazione e la cultura Andrulla Vassiliou, giunta a Cannes proprio per festeggiare l'anniversario. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo a Cannes, ha diviso i critici il film più atteso, The Tree of Life di Terrence Malick, dopo la proiezione applausi e fischi. Che non si sarebbe fatto vedere era scontato. Mr. Malick is very shy. I would say that I believe his work speaks for him. È molto timido, per lui parla il suo lavoro, ha spiegato sorridendo la produttrice Sarah Green. Ma il regista di culto Terrence Malick non appare quasi mai in pubblico. E così a spiegare The Tree of Life, il suo atteso film in concorso al Festival di Cannes, sono stati i protagonisti, Brad Pitt su tutti. We had a lot of theological debates. Abbiamo fatto molti dibattiti teologici durante le riprese, ma l'opera non riflette una religione o una filosofia in particolare, ma le comprende tutte, perché rimanda a una spiritualità universale, dice Pitt di questa pellicola complessa, dalle stupende immagini in cui la vicenda, la storia di una famiglia degli anni 50, è un pretesto per inserire ogni atto in una totalizzante visione metafisica. Ma la curiosità per la figura di Malick aleggia su tutto. È gentile, divertente, piacevole, molto appassionato, rispetta gli altri e va persino alla toilette, ha scherzato Brad Pitt. He even goes to the bathroom. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo ora alla pagina sportiva con i motori. Nel Gran Premio di Francia, Le Mans, vince l'australiano Stoner e torna sul podio Valentino Rossi, ma il leader del mondiale resta lo spagnolo Lorenzo, dietro la lavagna invece Marco Simoncelli. Il bad boy del motomondiale, una specie di Balotelli delle due ruote, insomma, ma al contrario di quanto sta facendo vedere Super Mario, per Marco Simoncelli la redenzione sembra ancora lontana. Dopo 2 giornate di polemiche sulla sicurezza e lo stile di guida, Super Sitch non trova niente di meglio da fare che chiudere la strada a Pedrosa. Lo spagnolo cade e si frattura la clavicola. Simoncelli è penalizzato dalla giuria, trasforma un possibile secondo posto in un anonimo quinto e finisce dritto dietro la lavagna. Non mi sento di aver fatto una maialata, di averlo buttato giù. Mi è venuto addosso e è caduto. Mi dispiace. Vince Stoner davanti al duo italiano Dovizioso e Valentino Rossi, col pesarese che comincia a venire a capo della Ducati. Io mi ricordavo la Ducati che andava 10 km più delle altre, invece con me sopra va un po' di meno. Comunque sono contento. Quarto posto per Lorenzo, sempre leader della classifica con 78 punti, 12 in più di Stoner. Tra 3 settimane si torna in gara a Barcellona. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi, dopo il giorno di riposo, riparte la carovana del Giro d'Italia, tutti all'inseguimento della maglia rosa l'iberico Alberto Contador. Dopo lo show di domenica sull'Etna, il Giro torna a risalire la penisola. Dopo il giorno di riposo, oggi la Corsa Rosa riprende il proprio cammino con una tappa apparentemente facile, diciamo pure di trasferimento, adatta a fughe o alle ruote veloci. Contador, dopo le fatiche di fine settimana e i minuti guadagnati, controllerà la situazione con la proverbiale calma olimpica, più abituato ad avere le maglie del primato addosso, e non si impressionerà certamente ora con quella rosa sulle spalle, visto che lui l'ha già portata a Milano nel 2008 nella sua unica e vincente partecipazione. Tappa per velocisti, dicevamo, tappa di poco più di 150 km, pettacchi contro Cavendish. Lo spezzino ci arriva dopo essersi spolmonato domenica scorsa non poco per la causa di squadra, pedalando di buona lena sino alle pendici dell'Etna. Cavendish, quel rissoso e irascibile velocista britannico, dopo i piagnucolamenti di Parma sull'Etna ci è arrivato in pratica con lo ski lift, attaccato in scia alla propria ammiraglia. Due modi diversi di interpretare la professione, pettacchi veloce a farsi in quattro, l'altro veloce a lamentarsi. Piergo Sostaggi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Termoli. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo il Consiglio Ecofin e il Consiglio Agricoltura. Il commissario europeo alla pesca Maria Damanaki riceve il ministro dell'agricoltura italiano Fabrizio Romano. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.